Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Buongiorno funamboli, volevo salutare tutti e in particolare la signora Gentile, o signorina, non lo so. Milan, brutto le bosciate! Più Veronica, meno Milan. Come posso fare per invitare Alessandro Milan a cena? Ciao Alessandro, una cena interessante. Sei un ragazzo intelligente. Ringrazio per il ragazzo. Per il ragazzo. Poi è Gentili, se non avete capito, no, il primo ancora Gentili. Ha detto Gentili. Sei un ragazzo intelligente o sono un ragazzo intelligente? No, no, ha detto... Perché secondo me ha detto sono un ragazzo intelligente per intrigarti, per andare a cena. Io ho capito che si riferiva a me. No, sono intelligente, io ho capito che si riferiva a me. No, non penso di essere così egocentrico, dai, mi pare di aver capito bene, non lo so, vogliamo fare il replay, la moviola. Facciamo un attimo, scusa. VAR, è il momento della VAR. C'è il momento della VAR, sì. Ah no, è tutto attaccato, guarda. Faccio questo, ma tu quando gli arbitri, guardami Veronica in telecamera, quando gli arbitri fanno questo gesto in campo, capisci cosa vuol dire? Sto facendo il gesto della VAR. No, no, ti vedo, deve essere una roba tipo un quadro, cos'è? Un quadro di Picasso, c'è l'arbitro, a un certo punto dice c'è una mostra là, tutti il pubblico. No, lasciate il campo che ha inaugurato la mostra di Picasso. No, e dice vado a controllare la VAR in TV, vedo se era rigore o no. Economico come gesto, l'arbitro anche potrebbe trovare, no? Così uno stilema muto più convenzionale. Siamo all'ABC, niente. Allora, niente. Scusami, la VAR però non è partita, che ci hanno detto? No, perché bisognerebbe riascoltarli tutti. Prima sono di ritrovarlo montati. Ci vogliono 45 minuti, ho capito. Vabbè, dai, lasciamo questo mistero. Signori, sono le 9:10 minuti in punto in questo momento. I funamboli sono tornati, abbiamo tanti temi da affrontare, tanti ospiti oggi per concludere questa settimana. Tanti argomenti roventi oggi. Roventi. Salutiamo tutta la redazione, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Elisa Pancaldi e Peter Bescapè in regia, mentre a Roma in regia abbiamo il bellissimo Alessandro Chiappini. Oh, come sempre. Eccoci qua. Allora, tanti temi, Veronica, dobbiamo partire subito perché il primo funambolo che ci raggiunge è un prete. Sì. Che ha fatto un editoriale, tra l'altro è anche un collega perché è direttore di una radio e vogliamo scoprire pensavo, che cosa ha fatto. Pensavo per Don Milan, non un collega in quanto prete, ma un collega perché lavora in una radio. Scopriamo subito chi è e che putiferio ha scatenato. Eh sì. Si tratta di Don Francesco Mariani, che salutiamo, grazie di essere con noi, direttore di Radio Barbagia, nonché parroco a San Giuseppe, a Nuoro. Buongiorno Don Francesco. Eccoci. Buongiorno a voi. È anche un sociologo, ha pubblicato un editoriale, non possiamo leggerlo, ma molto, molto forte, molto anche con posizioni energiche, contro l'accattonaggio, o meglio un certo tipo di accattonaggio. Un piccolissimo estratto. Sì. Esordisce dicendo: non so voi, ma ho provato grande disagio in questi giorni della Novena delle Grazie ad entrare in chiesa dovendo passare attraverso un cordone di questuanti dislocati sul sagrato, sul portone e anche nella chiesa stessa. Così apre, no? Don Francesco, perché ce l'ha contro questo modo di chiedere la carità, che voglio dire è molto cristiano come atteggiamento? Premetto che a me interessano le persone e la loro dignità. Mm-hmm. E che un certo modo di fare accattonaggio è una riduzione in schiavitù ed è una perdita della dignità delle persone. Questo è vero in alcuni casi, perché c'è un racket dietro, molto, molto spesso. Sì, sì. Se ne è parlato in varie città, non credo che il nuoro possa fare differenza. Sì, ma in che cosa le danno fastidio? Per il racket, siamo d'accordo. No, non mi dà fastidio la loro mancanza, il fatto che in questo modo, come dire, vengono da situazioni complesse di povertà e noi li teniamo in condizioni di subalternità senza integrarli realmente. Però Don Francesco, lei ha parlato più dell'atteggiamento che hanno e del modo in cui un accattonaggio molesto che si configura con un'insistenza e intromissione nella vita privata delle persone. Cioè, cosa fanno? Spingono, strattonano? Anche queste cose. Ma per esempio, no, rispetto alla misericordia, alla carità, quello che diceva prima Alessandro è vero, cioè per la Chiesa l'idea di chiedere aiuto, chiedere appunto un contributo, beneficenza, è sempre stato in qualche modo ammesso, assolutamente consentito. Sì, non sto negando questo, anzi dico di più, che innanzitutto bisogna guardare la persona che ci sta davanti, sì, tentare di capire chi è e di cosa ha bisogno. Non credo che il bisogno o la povertà di una persona si risolvano con la professione dell'accattonaggio. Perché per lei è una professione. Lei l'ha anche citato nell'editoriale. In un supermercato un extracomunitario mi chiede il carrello per parcheggiarlo. Ero il numero 403. Un euro per ogni carrello fa una bella cifra. Vabbè, non è che tutti glielo danno, ecco, magari. Assolutamente. Sì. Assolutamente. Ma quando lei incontra lo stesso soggetto per 5 anni che chiede il carrello, cosa pensa? Sì. Che quella è una professione. È una professione. Vabbè, ma che bisognerebbe fare? Quindi vanno fermati, vanno. Cioè, lei, perché ha suscitato un vespaio di polemiche. Devo dire, oggi il giorno ha fatto un sondaggio, le ha dedicato ieri l'apertura. Oggi ha fatto un sondaggio: 9 lettori su 10 stanno con Don Francesco Mariani. No, questo è un per quanto valga, questo sondaggio. Sì, sì, per carità. Però io ritengo che ci sono dei luoghi. Alcune delibere fatte da consigli comunali in giro per l'Italia li sottolineano. Luoghi di culto, luoghi ospedali, luoghi di cura, scuole, incroci, supermercati, dove maggiormente si raggruppa la gente, di starci attenti. Uno non può entrare nell'atrio dell'ospedale per fare l'acquisto, insomma. Sì. Però Don Francesco, quello che può essere pericoloso del suo discorso è il fatto che noi sappiamo che viviamo in un'epoca storica abbastanza controversa dal punto di vista della coesistenza tra appunto etnie. Lei per esempio parla anche di zingari, qui giustamente dice: come li devo chiamare? Uno li può anche chiamare zingari, ma c'è un problema reale nel convivere e anche una povertà abbastanza importante. Allora, queste parole in bocca a un rappresentante della Chiesa che in qualche modo è considerato, se vogliamo, l'ambiente che in assoluto è più accogliente, non pensa che possano avere un effetto in un clima già tanto acceso e già tanto indisposto nei confronti di certe persone nocivo? Guardi, io sono per l'accoglienza, assolutamente, ma un'accoglienza seria, non accattonaggio. Ieri sera nella mia parrocchia c'era la veglia di preghiera dei musulmani che festeggiavano la loro festa. Mm-hmm. E questo è accogliere. Altra cosa è se uno ha bisogno, come spesso accade, di essere aiutato perché è morto l'amico, perché quindi pagargli il funerale o garantirgli il cibo o un tetto se non ce l'ha. Queste cose sì. Dice la Chiesa è aperta a questo, ma non sì. Le piace questo. A me però, ripeto, la questione dell'accattonaggio è una degradazione delle persone. E noi rischiamo indirettamente di favorire questo degrado. Senta, ma visto che queste accuse sono arrivate sul giornale diocesano, quindi sarà stato letto in parrocchia, che dicono i suoi parrocchiani? Che le dicono? Ha fatto bene finalmente? Qualcuno l'avrà anche criticata, no? Qualcuno avrà detto. Assolutamente sì, come giusto che sia. Non è necessario, anzi, sarebbe una pretesa davvero assurda che tutti fossero d'accordo con me. Ci mancherebbe. Certo. Però che le dicono? Cioè, qualcuno invece che le ha detto ha fatto bene, non se ne può più. Ma di gente che dice non se ne può più, io ne vedo ogni giorno, sì. Ogni giorno, perché a furia di far finta che il problema non c'è, l'insofferenza cresce, poi deborda in gesti e in atteggiamenti che sono poco caritatevoli e poco civili. Sì. Questo è un po' il rischio, Don Francesco, nel senso che... Sì. Cioè, Veronica sta dicendo che lei rischia di alimentare questo... Nel momento in cui io ho anche l'avallo di un rappresentante della Chiesa e mi rendo conto che la mia insofferenza nei confronti di alcune persone, di alcune realtà è legittimata, rischio di far seguire a questo dei comportamenti che sono peggiori di quelli a cui assistiamo normalmente. Ma il rischio ci potrebbe essere, non lo nego. Da quello che è il mio modo di vedere, non tanto. Per esempio, vi leggo velocemente l'ordinanza di divieto di accattonaggio fatta dal comune di Sassari, che è un comune del centro-sinistra, un sindaco PD, e dice: tenuto conto delle ripetute segnalazioni sul disagio provocato da persone dedite all'accattonaggio nell'area urbana del territorio, eccetera, eccetera, anche in questa delibera si parla di disagio, perché uno il disagio lo prova. Sì, certo. No, ma infatti vari comuni, vari sindaci hanno... Ma sa cosa? L'accattonaggio molesto effettivamente è quello aggressivo, ma a lei una persona che chiede un euro al supermercato le dà fastidio perché l'ha trasformato in un business, perché lo vede tutti i giorni, non lo vede lavorare. Perché io quando vedo dei giovani, 22enni, 23enni, ridotti a fare questo, mi dico, questo è il fallimento delle nostre politiche sociali. Però lei questo non l'ha scritto esattamente in questi termini. Per esempio, lei fa anche un altro pezzo di quello che ha scritto. Lei dice: lo Stato, cioè Pantalone, spende 35 euro al giorno per alloggio, vitto, vestiario. Sì. Ecco, questo sappiamo che è un altro, ormai è diventato un luogo comune, anche molto spesso frainteso, pensando però, che i 35 euro vadano liberato. Io dico, quei soldi benedetti siano. Il problema è un altro. Se... Nelle nostre zone, i centri di accoglienza sono a Dorgali, a Tonara e a Ozai. Vale dire, mediamente con una distanza di 70-50 km da Nuoro. Allora, i pulmini che vanno a prendere questi nei centri di accoglienza li portano a Nuoro a fare l'accattonaggio e li riportano la sera nel centro di accoglienza. Secondo voi quei soldi dello Stato sono ben spesi? Il discorso dell'integrazione è molto giusto e sensato, però mi sembra, ecco, quello che le voglio dire, forse lei magari scriverà un altro post e articolerà meglio, che lei è stato abbastanza succinto in quella che invece è l'aspetto che ci sta spiegando, cioè quella che dovrebbe essere secondo lei un esempio virtuoso di integrazione. Cioè, è prevalsa prevalsa un po' l'invettiva o quasi uno sfogo di rabbia. Di insofferenza nei confronti di realtà che, per carità, tutti quanti possono avere all'ennesima persona che ti chiede, per esempio, dei soldi. Ma qui ci sta spiegando in una maniera invece più, se vuole, più pacata, Don Francesco, più elaborata, più quell'editoriale era un po', come dire, basta, ma avete rotto, ecco, era un po' più duro. No, il succo però è quello, cioè che l'accattonaggio non può diventare una professione e soprattutto non può diventare più conveniente del lavorare. Va bene, questo infatti l'ha spiegato bene, anche se in toni molto, molto duri. Noi Don Francesco la ringraziamo, devo dire, ha suscitato, ripeto, poi come sempre Veronica, a sentire le persone, a leggere magari quelle che sono state le reazioni, si hanno delle idee, poi a sentire le persone, e noi per questo siamo i funamboli, quindi le chiamiamo tutti i nostri protagonisti, vedete che ha spiegato, certo pur mantenendo le sue posizioni, però in maniera più elaborata, più articolata, quello ma che magari io credo che se tutto infatti uscito, fosse partito dall'intervista, da quello che ci stiamo dicendo adesso, non ci sarebbe stata la notizia, non si sarebbe fatto il sondaggio. Tutto nasce perché sul social network, tutto in versione succinta, e ecco qui. Però la durezza dell'intervento c'è stata. Noi la ringraziamo molto, Don Francesco Mariani, direttore di Radio Barbagia e parroco a San Giuseppe a Nuoro e quindi in Sardegna, che ha detto no all'accattonaggio molesto. No, io volevo un attimo polemizzare con te. Bene, però non so se siamo un po' di fretta e vogliamo polemizzare su dopo. Su c'è un estratto dell'intervista di Ricolfi molto interessante. Tra l'altro c'è un estratto su cui ero pronta a polemizzare. No, oggi Ricolfi è stato intervistato, il grande sociologo Ricolfi è stato intervistato su questo tema e dice: è anche legittimo che una società coltivi le paure, le paure come sentimenti. Allora, xenofobia cosa vuol dire? Paura dello straniero. Si confonde con il razzismo. Dice: sei xenofobo? No, c'è la paura dello straniero, che è un sentimento. È un sentimento da che mondo è mondo. Una cosa molto giusta. Dice che i sentimenti sono una cosa che chiaramente non può essere impedita e che non bisogna vergognarsi di provarli. Poi però c'è una postilla che andrebbe fatta, che è quella che molto spesso ai sentimenti possono seguire dei comportamenti. E il fatto che il comportamento venga avallato in quanto tale perché il sentimento esiste, ecco, questo è un sillogismo che a mio avviso non ha ragion d'essere. Comunque, qua si fa cultura, alle 9:23 minuti. Ieri però un altro tema ci ha colpito ed è il tema sul quale vogliamo anche incentivare i nostri ascoltatori a intervenire. 800 24 00 24, se volete chiamarci anche sulla ma anche su questo argomento, infatti. Però sull'idea che ieri era la copertina anche di 7, cioè aumentano, pare in maniera molto seria, le richieste per ottenere il porto d'armi in Italia. Sì. Soprattutto il porto d'armi, quello la licenza sportiva, perché sarebbe più semplice ottenerla in realtà, non per andare magari a sparare al poligono. Uno la prende per avere il porto d'armi e poi se lo tiene in casa. Allora, questo perché è giusto? Ci sentiamo più insicuri? È quello il metodo per sentirsi più sicuri? Parliamo di questo. Allora, i dati sono questi, ieri diceva il Ministero, e quindi riportati da 7, sono 1.100.000 circa il porto d'armi civile e poi 456.000 il porto d'armi per uso sportivo. È questo che starebbe aumentando. Che è in tendenza crescente, quello che... La Lombardia pare distinguersi per essere una delle regioni con il maggiore incremento, pare ci sia tra il 2015 e il 2016 un incremento del 7%. Sì, quindi... qualcuno ha parlato di stiamo diventando come gli Stati Uniti, le solite esagerazioni, lì c'è una cultura, addirittura scritto nella Costituzione, in un emendamento, il diritto a essere armati, quindi proprio paragoni che non stanno né in cielo né in terra, però... sono paragoni che stimolano un dibattito. No, anche il quesito dal punto di vista culturale, se progressivamente ci si sta spingendo verso quella direzione lì, cioè se mano a mano si pensa che nonostante lo Stato di diritto preveda che le difese ad essere armato debbano essere le forze dell'ordine, se invece ci sia una tendenza, un'inversione di rotta. A difendersi, diciamo così. Noi ne vogliamo parlare intanto con Mario Cattaneo, che... troviamo, è stato, forse lo conoscete, è stato intervistato varie volte, anche perché la sua vita dal 10 marzo è cambiata. È cambiata quando sono entrati dei ladri nella sua trattoria, Casaletto Lodigiano, c'è stata una colluttazione, poi lo sparo e uno di questi ladri è stato ucciso. Mario Cattaneo, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti voi. Tra l'altro è uscita sui giornali la notizia che anche per affrontare le spese legali, circa 20.000 euro, lei ha scritto un libro di ricette, Io sto con Mario anche in cucina. Io sto con Mario era un po' uno di questi slogan che alcuni avevano diffuso per mostrarle solidarietà. Mario, ma non le avevano promesso anche un aiuto a alcuni politici dal punto di vista della gestione delle spese, mi sembra di ricordare? Sì. Sono arrivati? Questo non sono ancora arrivati perché l'avvocato mi ha detto che è ancora presto, bisogna aspettare ancora l'evolversi della situazione. Comunque a suo tempo penserà lui a mettersi in contatto per questa cosa qua. Certo. Senta, usciamo dalla sua vicenda processuale perché comunque insomma c'è eccesso colposo di legittima difesa, credo che sia questo il reato, reato contestato, vedremo, non ci interessa tanto questa vicenda. Lei che effetto le fa sentire che aumenta il numero di persone che chiedono il porto d'armi in Italia? Beh, in effetto diventa una cosa ormai necessaria. Secondo me perché non si può più vivere in questa situazione qua, vivendo nel terrore, nelle paure, nelle angosce, tu di notte qualunque rumore che puoi sentire, con quello che si sente in giro, ma anche di giorno, uno ha diritto di avere un briciolo di sicurezza almeno per potersi subito, all'improvviso, così potersi avere qualcosa per difendersi. E lei questa sicurezza gliela dà un'arma? No, beh, un'arma, tante cose ci sono in casa che per potersi difendere ci sono i coltelli, ci sono i bastoni, ci sono i martelli, diventano sempre. Tutti sono armi, tutte, certo, sono, però, sono armi, però ecco, sono oggetti di lavoro, non è che no, infatti la differenza con la pistola sta lì, ecco, magari un coltello viene utilizzato con altre finalità e poi può diventare un'arma all'occorrenza, invece però la pistola pistola arma, cioè per lei la difesa è questa, la difesa no, attraverso no, strumenti, no? No, non è che sia questa, la peggiore delle ipotesi può diventare questa, perché quando la situazione diventa drammatica uno si difende come può, in qualunque maniera, capito? Se è necessario non usarle, anzi, voglio dire, ben venga che uno non le usi, però che possa tenerla è una sicurezza in più che ti Mario. Dà. Posso chiederle una cosa? Volevo sapere, per esempio, lei sapeva usare bene, cioè sa usare, ma sapeva anche in quell'occasione, è abile nell'utilizzo delle armi, aveva fatto dei corsi, sapeva usarla? No. Io sono 50 anni che ho la mia arma in casa, perché pratico la mia passione, la mia attività venatoria e basta, nella maniera più assoluta. Dunque non aveva un'abilità particolare, cioè voglio dire non aveva mai fatto corsi, perché poco fa parlavamo dell'aumento di licenze sportive, quindi non aveva mai fatto corsi al poligono. No, assolutamente non mi interessava, io usavo la mia arma solo per la mia passione e basta, nient'altro. Perché sa che il rischio spesso che si dice è anche il fatto che magari chi è armato poi non lo sappia utilizzare bene, non sia capace di utilizzare l'arma e comunque finisca a soccombere rispetto a un cioè un malvivente la sa usare certamente meglio di uno che lo fa di mestiere, insomma è un'esagerazione, ma capisce cosa intendo. Certamente, però io dico che in certe situazioni quando uno si trova bisogna provare per essersi in certe situazioni per vedere uno cosa prova, qui è l'istinto che poi ti guida e agisce per te, perché in quegli attimi lì sono talmente veloci che in un attimo tu devi prendere la decisione cosa fare. Qui io avevo tre bambini piccoli dentro casa, ho detto oddio cosa stanno facendo, stanno venendo di sopra, avevano già fatto danni e razziato tutto il locale sotto. Sentivo dei rumori davanti alla porta d'ingresso e cosa dovevo fare? No, ma infatti, questo è un punto che viene spesso sottovalutato, perché si fanno tanti discorsi da salotto, tanti discorsi postumi, ma chiaramente poi quando uno è lì è l'idea di dire, cioè sono attimi, frazioni proprio di secondo dove la lucidità probabilmente non è neanche il massimo. Però appunto è uno dei rischi che dicevamo, proprio in assenza della lucidità, se uno non padroneggia bene l'utilizzo dell'arma a volte rischia di essere un boomerang, perché magari l'altro è estremamente più abituato e più lucido. In questo caso mi viene da dire, meno male, che voglio dire, è chiaro, non era abituato a utilizzare l'arma e ce lo sta dicendo, però meno male invece che non è andato a soccombere, mettiamola così. Perché? Sì, quello sì, potevo essere io al posto, essere colpito io, perché purtroppo è stata la colluttazione, è stato un attimo, io non avevo intenzione di sparare, ho detto apro la porta, mi vedono armato, scappano, questa certo. È capito, il mio pensiero è stato, però invece hanno tentato di derubarmi quest'arma qua, io non l'ho mollata, ci siamo avvinghiati un attimo, è partito sto colpo qua che ha colpito quello vicino. Certo. E se io avessi abbandonato l'arma sarei stato io sicuramente là per terra. Certo. Cosa volete che vi dica? Andata così, però la mia intenzione non era quella di sparare di fare del danno a qualcun altro. No, quello che ci colpisce è che lei proprio ha definito con questo aggettivo necessaria addirittura il fatto che gli italiani si armino, che non è un segnale molto di speranza, voglio dire, di fronte al fatto che ci sono le forze dell'ordine, signor Mario, in teoria, che paghiamo le tasse, cioè sono polizia, carabinieri. Mi ascolti un attimo, sì. Lei io non ho avuto il tempo di chiamarle. Ma ci mancherebbe questo. Chiamarle, perché se io perdevo tempo, prima che magari ti rispondono passano 20-30 secondi. Quindi, poi devono arrivare. Ecco, poi devono arrivare, quindi questi sono già entrati. Hanno fatto tutto quello che dovevano fare, e poi con la moglie, i piccoli, la nuora, così cosa viene fuori? Viene fuori che le forze dell'ordine, anche se le hai chiamate, questi non servono più. di conseguenza nella peggiore delle ipotesi io dico Mario, è anche il fatto che c'è una percezione forte, e io voglio chiederle a suo avviso quanto è reale o quanto è un discorso di percezione, che lo Stato non sia presente e abbia abbandonato i cittadini. Allora io mi chiedo, lo chiedo a lei e poi lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, cioè questa è una percezione o realmente c'è stato negli ultimi anni un cambio di qualche tipo per cui lo Stato non si cura più delle vicende dei suoi cittadini che sono costretti a difendersi da soli? Quello purtroppo lo devo mettere in evidenza anch'io, perché uno ha bisogno di chiedere, di sapere, di fare, e non ha nessuna possibilità, ti mettono in attesa, ti mettono... Nessun supporto, lei dice, non nessun supporto. Signor Mario Cattaneo, noi la ringraziamo per essere stato qui su Radio 24, ricordiamo 10 marzo la colluttazione a Casaletto Lodigiano e l'uccisione di uno dei rapitori. C'è da dire, il libro, lo citiamo non tanto per niente, non è che è un letterato Mario Cattaneo, ma Io sto con Mario anche in cucina, lo ha scritto anche per sostenere le spese legali, 20.000 euro, e quindi i proventi servono. Io invece volevo dire un'altra cosa, che in questa improbabile legge sulla legittima difesa, che probabilmente non passerà al Senato perché era a mio avviso piena di insensatezze, c'era un unico emendamento che aveva una logica, che era, credo, a firma di Verini, che proponeva che lo Stato pagasse le spese situazioni come quella del signor Mario. Ecco, quello era un emendamento invece che aveva un grosso senso. Dobbiamo andare in pubblicità, poi ci sono tanti ascoltatori, ripartiamo da loro, state con noi qui ai Funamboli. I Funamboli. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I see what you're doing to me when you don't believe a word I say. Allora, no, è che vedi, io non voglio più entrare perché vorrei far sentire il grande Elvis. Stamattina ci è presa così. Però tocca portare avanti una trasmissione. Allora c'è Stefano che ci chiama da Sassari. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. Eccoci qua. Io avrei voluto intervenire sul discorso del parroco. Sì. Allora, mi permetta solo una piccolissima e velocissima osservazione sulla signora o dottoressa Gentili. Sì. È particolarmente strano, nel senso che di lotta e di governo. Cioè, in alcuni casi il diritto, le regole valgono, in altri non valgono. Questo come discorso generale. Quando si tratta di occupazioni, le regole si possono aggirare. Se si tratta di quelli che si devono difendere, non si possono aggirare. Glielo do come consiglio, perché è particolarmente brava nel suo eloquio ricercato, tutto quello che si vuole. Però, ma è una banderuola tanto... al vento, lo dico, una banderuola al vento. Si innamora del suo eloquio, però sì. A volte non è coerente. Guardi, volevo, se preferisce, posso parlare in maniera più sboccata e meno forbita, così mi sente più empatica, più vicino. Io la seguo benissimo, signora, non è un problema. Erano i contenuti che cercavo di stigmatizzare. Comunque, sì, no, guardi. Il mio intervento era questo. Bene, grazie. Vorrei capire com'è possibile, conciliare il non essere etichettato come razzista, eccetera, eccetera, con il fatto che io non voglio che mi rompano le scatole chiedendomi l'elemosina in continuazione. Spesso in maniera assolutamente non accettabile. Vabbè, lei questo sta, va benissimo. Pensare. Poi l'accostamento che lei fa tra l'occupazione di una scuola, sulla quale io ho semplicemente detto non che sia lecito, ma che è una cosa che siamo soliti vedere, perché immagino si riferisca a questo, e il fatto che uno si armi e spari da solo dentro casa, no, sa, io vedo una leggera differenza. L'elemosina, ma va bene lo stesso, insomma, lei è libero di... E cosa c'entra con l'occupazione l'elemosina? No, l'elemosina dice, lui vuole aggirare le regole, in non capisco. offesa e, non è, e che nessuno gli rompa le scatole. Non per questo deve essersi sentito bollare come razzista. Questo dice. No, no, no, ma infatti nessuno bolla come razzista. Intanto il signore non mi risulta che sia un prete, né che sia lui che abbia fatto, che abbia perorato una causa sui social network. Quindi io tanto banderuola al vento non mi sento. Però purtroppo se non si esprime quello che fa parte del sondaggio, no, 9 a 10 che abbiamo citato poc'anzi, per cui non si comincia sei a dire minoranza, tutti accattoni, accattoni pessimi, sfregiate gli accattoni, purtroppo si diventa buonisti e politicamente sei corretti buonista, e questo è il trend buonista. Che va per la maggiore, dunque. Grazie Stefano. Però andiamo... posso parlare un po' peggio così andiamo... magari. No, no, no, andiamo a Verona. Adriano, buongiorno Adriano. Buongiorno, Alessandro, buongiorno. Sì. No, però c'è l'eco, deve spegnere la radio. Ho già fatto, stavo guidando. Ecco, no, no, volevo intervenire, sono sulla stessa linea del mio predecessore e anche parlare per quanto riguarda l'aumento delle richieste di porto d'armi, perché questo è un indice di quanto sente, di quanto vive la gente, dell'insicurezza che si vive quotidianamente. Io vorrei chiedere alla sua compagna di trasmissione se sa che cosa è previsto per il furto. Non è neanche più previsto l'arresto, è prevista la denuncia a piede libero. Questo è la spiegazione per la quale i cittadini sentono bisogno di armarsi, sentono l'insicurezza. Lei sa invece che i reati sono in calo, per esempio, al di là di quello che dice la percezione. Non il furto. No, infatti il furto che non è rapina e ha poco a che fare con la questione delle armi e col rischio per l'incolumità della persona. Purtroppo per ciò che riguarda rapine e furti in casa la percezione diverge da quello che dicono i dati. A me spiace doverlo dire perché capisco che è una posizione impopolare. Le rapine, i furti, i borseggi sono in aumento. Quelli, i reati, gli strappi cosiddetti in strada, eccetera, sono in diminuzione. Reati quelli gravi, gli omicidi, eccetera. Tutto ciò che tocca l'incolumità fisica delle persone. I furti, cioè uno che mi strappa una catenina per strada, non è che uno va in giro per questo armato, però. La questione che molti italiani si sentono per questo insicuri, poi rispondono con le armi. Io no, per esempio, a me non è mai venuto, anch'io mi sento più insicuro rispetto a 10 anni fa. Non mi è mai venuto in mente di prendere un'arma. C'ho anche 2 bambini piccoli, non sapevo manco come caricarla. Sì, si può imparare, però. Ma per esempio, tu perché ti senti più insicuro? Cioè, che cosa trovi che sia cambiato? Mi sento più insicuro perché vivo. Cosa è cambiato? Ma vieni a vivere sotto casa mia. No, è una domanda seria. Vieni a vivere sotto casa mia. Sono aumentati gli spacciatori. Sono aumentati alle 10 di sera. Va in giro. C'è gente che si fuma le canne per strada, proprio come se fosse una sigaretta. No, ci no, sono... hai detto questa. Vabbè. Quindi il fatto che vivo, vado per le strade, come si ripercuote sulla tua che spaccia e se le fuma spaccia, vieni ai giardinetti sotto casa mia, vieni a vedere che le amiche che mi vengono a trovare dice alle 10 per favore accompagnami perché io da quei giardinetti non ci passo più. Che cavolo, non so, queste sono le cose concrete che la gente sente. Questo sotto casa mia, poi magari sotto casa di un altro è stupendo, è fantastico. Io abito vicino a Viale Padova, chi è di Milano sa cosa vuol dire. Insomma, quindi tu dici che rispetto a 10 anni fa c'è stato un incremento della criminalità enorme. Della criminalità di questo tipo. Che ne so, tu mi hai detto da che cosa lo vedi, i giardinetti sotto casa mia. 10 anni fa ci passavi, adesso qualsiasi donna dice dopo le 9 di sera accompagnami per favore perché io non ci passo. Questo è un elemento, come dire, molto minimo ma concreto di cosa vuol dire che è peggiorata la situazione. Non posso replicare perché non sono passata nei giardinetti sotto casa tua. Verrò a fare un test. Vieni. Passa sotto i giardinetti di casa mia alle 10. E poi passa ti dirò, tu. Non poi so dopo se il problema principale sono quelli che si fumano le canne lì sotto, se il fatto che invece ci le sia fumano spaccio, perché spacciano, ci siano le persone... fumano perché spacciano, chiaramente. Cioè, le fumano nel senso che un po' spacciano, un po' fumano. Quello che fanno gli spacciatori, insomma. Allora, alle 9.46 minuti dobbiamo andare al traffico. I funamboli. Applausi a scena aperta al prete sardo. Ma scusate, ma non avete visto l'ultima statistica che parla che un italiano su 4 vorrebbe la dittatura per almeno 5 anni per mettere a posto un po' tutto? E Eccoci qui allora con il nostro funambolo Leonardo Manera. Ciao Leonardo. Buongiorno, eccolo. Buongiorno Veronica. Alessandro, voi andate a fare la spesa al supermercato, al centro commerciale? Eh sì, eh. Certo. Cos'è la cosa più bella dell'andare a fare la spesa? Ma guarda, io mi perdo nel reparto frutta e verdura, sono ghiotto di frutta e più che di verdura e quindi sto lì tanto. È difficile dirti, io perdo molto tempo nel reparto latticini, sono una fan di yogurt, formaggi. Ma voi mettete i guanti per prendere la frutta? Sì. La verdura? No, tu non li metti, no, li prendi così a mano nuda, vai lì con le mani nude. No, no, assolutamente, cioè, la noce di cocco non metto magari il guanto, ma... Prossima domanda? Sì. No, è perché sono 60 anni che è stato che è aperto il primo supermercato in Italia e quindi mi sembrava giusto omaggiare insomma i supermercati, i centri commerciali, perché in un mondo che è il nostro, dove conta solo il PIL, il prodotto interno lordo, secondo me i centri commerciali sono le cattedrali del PIL, no? E quelli belli li riconosci subito, perché nei centri commerciali belli i carrelli vanno dritti, hanno le ruote oliate. Ci sono anche quelli piccoli per i bambini con le bandierine, così si abituano subito fin da piccoli. Invece i discount fanno posto i carrelli con le ruote che si bloccano, perché nei discount risparmi, ma devi soffrire. Invece nei centri commerciali belli, prima dell'ipermercato c'è la galleria con tutti i negozi. Per esempio c'è il negozio di biancheria intima, con completini sexy messi su manichini dai corpi perfetti. Io qualche volta, quando sono andato per prendere un regalo, ho avuto la tentazione di lasciare lì il completino e portare a casa il manichino. Una volta la mia ex si è offesa e ha detto: allora vai a letto col manichino. Non è stato male. E poi ci sono dei negozi di abbigliamento per giovani, che anche se hai 50 anni come me entri, perché sei attirato dalle tette della cassiera. In questi negozi c'è sempre il volume altissimo e la cassiera col piercing che ti parla e dice: cosa vuoi, come posso esserti utile? E tu entri solo perché sei attirato da lei. Perciò quando entri per mercato hai avuto due shock, soprattutto shock sessuale. Sei pronto a comprare qualsiasi cosa privo della minima lucidità. Io mi fermo sempre al reparto gastronomia a guardare le vaschette di insalata russa per la maionese, che quando la faceva mia madre la maionese era gialla, giallina. Invece nelle vaschette dei centri commerciali la maionese è bianca, come la neve. E mi chiedo com'è possibile. Quali sono quelle galline che fanno le uova col tuorlo bianco? Forse sono galline albine, specializzati in maionese per centri commerciali. E poi compro un pezzo di focaccia altissima, gommosa focaccia, ma non la uso per mangiare, la uso per rifare l'imbottitura del divano. È un po' unta, ma funziona meglio del poliuretano espanso. E poi compro un litro di latte che è fresco, ma è microfiltrato. È fresco, ma dura 15 giorni. Se una mucca vede quel latte, non fa mufa. Ma... E poi vado a pagare con la carta fedeltà, perché più punti accumulo più ho diritto a dei premi. Io prendo sempre forni a microonde, ne ho 27. In uno tengo le mutande, in uno i calzini, in uno le lettere d'amore che scrivo al manichino. E poi torno a casa e mangio una porzione di vere lasagne alla bolognese prodotte a cinisello balsamo, mentre sul tablet guardo i miei amici virtuali di Facebook. Mi sento un po' solo, ma non importa. Mi basta accendere un forno a microonde e ho tutto il calore necessario. Leonardo Manera, beh, devo dire che il manichino, la serata col manichino mi interessava approfondire. Sai che io sono sempre attirato, cioè, questi negozi di biancheria intima, sì. Io mi fermo sempre per ore a guardare davanti alla vetrina. A volte i manichini. Sì, ma perché manichini. Ti metti a immaginare la personalità del manichino? Sai che i manichini hanno sempre corpi perfetti, belli, allora i completi di biancheria intima risaltano molto. Io guardo il manichino, poi guardo la commessa, guardo il manichino, la commessa, la commessa. E la commessa non è mai all'altezza del manichino, vero? No, spesso è all'altezza dei negozi di biancheria intima. La commessa guarda il manichino, poi guarda me e poi chiama la forza pubblica. E così sei stato, credo, arrestato 3-4 volte, se non sbaglio. Una volta, poi concludo, ho visto davanti a un negozio di biancheria intima, c'era questo manifesto enorme di questa modella di biancheria intima, con un signore lì che era perso veramente a guardarla, ma io mi sono fermato a guardare lui perché ci sarà rimasto, credo, per mezz'ora. E io mi sono fermato lì a guardarlo e a guardare lo sguardo che aveva. Come dire, questa non starà mai, non potrà mai stare con me. E intanto si amareggiava. Una specie di catena meravigliosa. Tu che guardi lui che guarda la modella, bellissimo. Appuntato alla prendere in generalità, signor Leonardo Bonetti, ci prego di seguirci in quest'ora. Sicurezza o paura? C'è un signore che continua a guardare il manichino, poi guarda me, poi guarda il manichino. Eh già. Allora, va bene. C'è Franco da Monza Brianza che mi inquieta sempre questa cosa. Di dov'è Franco lei? Di dov'è? Pronto, Franco? Buongiorno, sì, forse lei parla con me. Sì, buongiorno sì, a lei. Sì, di dov'è? Ascolti, niente, io ho sentito la telefonata di un prete, l'ho presa sì. Un pochino di stupita la cosa, volevo solo segnalarle due particolari, non voglio essere ironico, neanche stupido. Ah, si chiama Francesco, uno deve nascere pure, deve aver fortuna quando nasce, perché c'è un Francesco vivente, Vaticano, io non sono credente, eccetera, ma guai a chi me lo tocca. C'è un San Francesco della... Poi c'è un signor Bertone. Ecco, se questo signore si lamenta, perché io non faccio la carità a nessuno, per principio, non voglio incoraggiare la professione dell'accattone, particolarmente quando si tratta di bambini, eccetera, eccetera. Offro quando esco dal supermercato del cibo, se posso, quello che riesco a fare e così via. Quello che non capisco di questo signore è, vorrei sapere da parte sua, è un fatto di invidia che forse quell'euro che viene preso dal carrello non viene dato a lui, ma viene preso da un poveraccio, così che abbiamo voluto noi, abbiamo fatto la propaganda. Diciamo, non è qui a poterle più rispondere, non credo, non mi sembrava, almeno non l'ha messa così, però non è qui a risponderle, non credo. È immaginaria la mia richiesta, me ne rendo conto. Sì. Vorrei ricordargli anche che c'è un altro che forse non si chiama Francesco, ma si chiama Bertoni, che ha preso i soldi del Bambino Gesù di Roma, lì dell'ospedale, per farsi la casa, eccetera. Ecco, perché non va là, mamma mia, non voglio essere lungo. Poi una segnalazione alla cortesissima, simpaticissima, intelligentissima signora Veronica, che è accanto a lei lì. Sì. Lasci stare il trend, io sono in difficoltà quando sento parlare di trend, se sono a Londra sì, non è cattiveria in quello che sto dicendo, se fossi lì presente potreste giudicarmi un pochino meglio di quanto temo che voi possiate fare non vedendomi. Va bene, non credo che segua il trend Veronica, anzi dice le sue idee, esprime le sue idee o no, Veronica? No, tu non segui so il trend. Non ho capito in che senso, la parola trend... Ma credo, se l'ho capita bene, è un complimento, come dire, non seguire il trend, 9 su 10 dicono così, se tu pensi di no, stai coerente con le tue idee. Come vedi, insomma. Perché qualcuno pensa che uno possa far cambiare idea a Veronica Gentili? Sono no? disposta a prendermi sfilze di improperi, di chi dice dove vivi, prendi i taxi. No, beh, di solito prendo la macchina o cammino a piedi o posso anche, in qualunque modo, motorino, mezzi, dipende. Dipende. Va bene, quindi dai, comunque, finisce la prima ora dei Funamboli, state con noi, c'è il giornale radio, poi altri temi, altri ospiti, non vi abbandoniamo fino alle 11, poi alle 11 vi abbandoniamo che c'è il weekend. Però state con noi. I Funamboli. Gentili, sei permalosissima, permalosissima. È anche vero che c'è tantissima gente che non denuncia più neanche il furto, perché ti arrivano i carabinieri in casa, controllano che ti hanno rubato in casa e non fanno nient'altro. Avero, che te serve? Te serve di capire in che mondo vivi, Avero! Non sei mica in paradiso, apri gli occhi, Avero! Il problema è che tu finché mi abiti nel centro, nel pariolino, Avero! Non c'è faride! Dopo, quando fate così, mi tocca difenderla, è la mia Veronicuccia, la mia Veronicuccia. Oggi il tormentone, guarda, tutti, vai. La mia Veronicuccia. Come stai, Veronicuccia? Che non tutto si dica bene? Che non sono una ragazza coraggiosa, no? Conoscendo il trend della radio, no? Certo. Perlomeno allora. Che non si dica che non sono coraggiosa. Guarda, è qua proprio si butta l'arma bianca contro i nostri ascoltatori. No, ma che conto. Tanto lo so, l'avevo già detto in esordio stamattina, prima di cominciare la puntata. L'ho detto qui ai colleghi, ho detto guardate stamattina oggi come massacrano. Il gioco è proprio il tiro al bersaglio tutto il tempo. Ma soltanto no. E non mi convinceranno a dire l'opposto. Ti vogliono così bene. Becco il loro applauso che mi dicono: brava, sei anche tu sei contro questi immigrati che vengono qui a rubarci il lavoro. No, non lo dirò per non avere lo dirà mai, l'applausetto. Non lo dirò. No, ma io non lo dico e non lo dico e non lo ma dico insomma, per l'applausetto. Insomma. No, lo dici perché lo pensi. Infatti, no, vai per la maggiore. No, non mi ha detto che sono contro gli immigrati. Insomma, questo no. Allora, e comunque, sì, sono permalosissima. Questo sì, questo è vero, questo permalosissima. È permalosa, questo lo posso confermare, d'altronde. Ma proprio non per, con, mi auguro per tutti sì. questi che mandano i messaggi di non incontrarmi mai nella vita reale. Allora, allora, mandate i vostri messaggi al 349-238-6666, questo è il numero di WhatsApp, oppure chiamateci 800-24-0024. Ecco, per esempio, adesso dobbiamo affrontare un tema, Veronica, che anch'io, sì. qui sono io un po' faccio fatica, ma non perché sono l'uomo, però ci sono alcuni aspetti che mi fanno un po' stortare la bocca, ecco, diciamo. Purtroppo così. In questa situazione io mi troverò d'accordo con te. Ah, e no, e come sì, facciamo? Ne soffro molto, ne perché soffro. Chiaramente essendo... No, ma non solo per questo, perché so bene che chiaramente sarà l'opinione prevalente e quindi ingraziarsi gli ascoltatori sarà semplicissimo. No, quindi no. mi verrebbe quasi per principio ad andare dall'altro lato, ma... No, no, non farlo, non farla, dopo ti danno della banderuola, non farlo. No, anzi, perché secondo loro, per essere politicamente corretti, adesso io dovrei dire questa cosa, invece allora, non la dirò. Però partiamo da un passo indietro. Ieri avevamo il presidente dell'Accademia della Crusca, se ben ricordate, che ci ha salutato dicendo poi proprio sta arrivando qui il presidente della Camera, Laura Boldrini. Ecco, io ho già fatto un errore, non dovrei dire il presidente della Camera, ma dovrei dire la presidenta della Camera, Laura Boldrini. E tra l'altro l'Accademia della Crusca ha poi detto è giusto, si deve dire la sindaca quando è donna, o che ne so, la presidenta, e così via. Insomma, avete capito, parliamo di un disegno di legge, una proposta di legge, prima firmataria Titti Di Salvo, ma c'è anche, credo, Paola Binetti. Noi comunque abbiamo Titti Di Salvo. Onorevole, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie dell'invito. E c'è Paola Binetti anche tra, leggevo sul Messaggero ieri, tra i primi firmatari, è giusto? Ci sono parlamentari di diversi schieramenti politici, non solo Paola Binetti, ci sono altri di altre forze politiche. Ok. L'idea è quella di un disegno di legge per chiedere di aggiornare tutti gli atti pubblici e comunque insomma di declinare con il genere femminile quando c'è una donna. Tutte. Ci faccio degli esempi concreti, ecco, su cosa per esempio dovremmo... Sì, intanto le faccio un esempio concreto parlando della mia vita. Sì. Vede, io nel fine 1999 divento la prima segretaria generale della CGIL in Piemonte. Sì. La prima in Italia, no? Quindi il capo, si sarebbe detto, no? Della struttura della CGIL. O la capa, a questo punto. No, aspetti, no, le racconto una cosa di vita vissuta. La prima, io tra l'altro non arrivavo dalla categoria dei metalmeccanici, che anche questa è una rarità in Piemonte, no? Ma dai bancari. Ora, la discussione, la prima discussione fu come mi dovevano chiamare, nel senso che a me era evidente, normale, che chiamassero segretaria, no? Della CGIL, oggi acquisito, la Camusso viene chiamata segretaria della CGIL, la Furlan viene chiamata segretaria della CGIL, dico bene? Sì. Allora invece i miei, diciamo, quelli che erano con me in segreteria, volevano chiamarmi segretario per riconoscermi autorevolezza, cioè gli sembrava sì. brutto chiamarmi segretaria, sminuente, perché sminuente. Gli pareva che sminuissero il fatto che ero il loro capo. Beh, abbiamo, ecco, fatto esempio, abbiamo fatto passi da gigante. Adesso per esempio ci sono tantissime sindaci donna e proprio la prima cosa che si dice anche a Virginia Raggi a Roma, una delle prime domande, sa come dobbiamo chiamarla, sindaca, sindaco, ecco, ma è davvero così importante? Era per rispondere in modo concreto a una discussione che a volte viene resa in modo assolutamente caricaturale, cioè viene resa caricatura una discussione che in realtà peraltro non è così recente, è molto consolidata, certo. No? E certo, se mi avessero chiamato capo invece che segretaria, in quell'occasione mi sarei sentita un appellativo che non corrispondeva a quello che sono, e non capivo perché il fatto di essere chiamata al maschile fosse così importante, cioè come l'autorevolezza mi fosse data non dalle mie capacità, che erano quelle per cui ero stata eletta, peraltro, ma dal fatto di avere un appellativo maschile. Ma da un epiteto maschile, ma io le volevo chiedere. È molto meno complicato da spiegare ed è molto più semplice. Sì, come non vita è vissuta. Una caricatura. Ma lo dico, no, lo dico, posso aggiungere, poi mi sottopongo alla nostra domanda. Lo dico perché facevo un esempio di 17 anni fa per dire che il linguaggio cambia quando cambia il mondo intorno. Una volta era chiamato tutto al maschile perché non esistevano esempi in alcuni incarichi di lo sa che il dress code della Camera dei Deputati è previsto solo per gli uomini? Cioè come si entra la cravatta, si... Però onorevole, qui sembra un po' più il contrario, sembra più che si tenti di cambiare il mondo intorno con un tentativo di imporre linguisticamente delle modifiche. Non sembra tanto il fatto che invece ci si registri sui cambiamenti, perché ci sono alcune battaglie, no? È diventata un po' una crociata questa linguistica, in particolar modo di cui si è fatta portatrice la Boldrini, appunto. E penso al caso della parola segretaria rispetto a segretario, e addirittura molte donne che si sono ribellate dicendo lo no, sai che io ci sono chiamata segretario. I segretari della Camera, che sono un ruolo, lei li conosce molto bene, che, in caso esempio di donne essere chiamate segretarie dicono no, così è sminuente perché scambiano per la segretaria, lavoro nobilissimo peraltro. Culturalmente sono due ruoli molto diversi, e prima che ci sia un cambio di passo reale, ad oggi essere chiamata segretaria rischia di creare un misunderstanding a livello di comprensione. Io capisco il vostro argomento, però lo contesto. Uno, perché non è una crociata, no, non è una crociata, è un punto di vista che si propone come, diciamo, attraverso anche delle norme. In questo caso la mia è una proposta di legge. Naturalmente la mia proposta di legge, che è quella per esempio di chiamare il femminicidio femminicidio. Voi sapete che l'assassinio di una donna fatta da un uomo, quello di cui si parla tanto il 25 novembre, ma né prima né dopo, diciamo, a volte, ecco, non si può chiamare femminicidio secondo il codice, è sempre solo un omicidio. No? Perché non, perché il tema è perché nascondere, è tutto declinato al maschile, e rendere invisibile la verità. Perché rendere invisibile la verità? Qual è il problema di chiamare femminicidio l'assassinio di una donna invece che omicidio? Veramente io, diciamo, trovo caricaturale la descrizione che viene fatta di un impegno che è quello di affermare la realtà nuova delle donne e il loro spazio nella società. Ma questo è il tema. Poi, sa, io ieri sono intervenuta in aula per dire che il licenziamento di IKEA deve essere ritirato nei confronti di una donna madre licenziata con è stata nostra ospite l'altro ieri, sì, guardi, è stata nostra qui ospite questa dipendente dell'IKEA, quindi ne abbiamo parlato. Tra però l'onorevole Titti di Salvo, tematica che si ripropone oggi perché un altro dipendente dell'IKEA è stato licenziato dopo un infarto. È molto interessante quello che ci sta dicendo. Sentiamo le informazioni sul traffico, poi riprendiamo da lei, onorevole Titti di Salvo, che non ho detto è del Partito Democratico, perché ovviamente c'è anche chi la butta un po' in ironia. Anch'io l'ho fatto qui dicendo quella battuta, che è una battuta, quando mi chiamerete giornalista io accetterò di chiamare sindaca, che ne so, Virginia Raggi o presidenta Laura Boldrini. E ovviamente molti però lo dicono. Allora io che faccio l'elettricista, ci possiamo chiamare subito. No, insomma, io faccio l'elettricista, ma sono uomo, vorrei essere elettricista, dentista e vabbè, non continuo, ma ci siamo capiti, ripartiamo da qui. I funamboli. Allora siamo qua con l'onorevole Titti di Salvo, l'ho fatta come battuta, ma in realtà l'ho fatta varie volte, no? Questa del giornalista, dentista, atleto, camionista e potrei continuare. Onorevole, lei come replica? È prenderla troppo sotto gamba, diciamo così, il tema? No, per carità, poi diciamo che il punto è non andare nella profondità delle cose, non svilirle con le caricature. Quindi la cosa che io ci tenevo a proporvi, il ragionamento che ci tenevo a proporvi, che questo è uno degli aspetti di un impegno più generale per cancellare l'invisibilità delle donne o per affermare il loro protagonismo per cancellare le discriminazioni nei loro confronti, battaglia di cui ha giovamento l'intera società. Ma se lei facesse una battaglia per, se lei facesse una battaglia per, scusi, se lei facesse una battaglia in Parlamento per annullare per esempio il le differenze di salario, per certo, ma quelle lì che non ho fatto. Beh, infatti, ma lo so, glielo chiedo apposta, su quelle mi troverebbe al suo fianco con l'alabarda, capisce, a combattere. Il discorso è che rischia di avere più risonanza, ma non su questa. Più eco, proprio perché appunto può essere facilmente presa in giro, si può fare facile ironia su un provvedimento come questo, rischia di avere più risonanza una cosa del genere che non battaglie che invece hanno che sono un sacrosante, senso più profondo. Che sono sacrosante. No, no, ma diciamo che naturalmente poi l'amplificazione, la caricatura rende da più clamore, no, alle sì. notizie. Ma per questo non a caso io nominavo la battaglia che sto insieme a tante altre persone e al Partito Democratico e tanti altri facendo per la lavoratrice madre licenziata piuttosto che quella fatta per cancellare le dimissioni in bianco. Però inviterei a riflettere su, secondo me, perché l'Accademia della Crusca è impegnata anch'essa su questo fronte. Cioè l'italiano ha un maschile e un femminile, no? La nostro linguaggio sì, ha un certo. maschile o femminile, ha un singolare o un plurale. Il fatto di aver consolidato alcune modi di definire le cose, no? Docente, anche se sono tutte donne, è soltanto legato al fatto molto spesso che nella storia alcuni lavori non avevano le presenze femminili. E adesso sì. Ma infatti, semplicemente però, modernizzare e rendere aderente alla realtà. Onorevole Di Salvo, è anche vero che la sedimentazione del linguaggio italiano però è stata un processo secolare che è accaduto nel tempo. Certo. Pensare di intervenire in maniera coatta facendo questo tipo di intervento e facendo virare la cosa rischia di essere un lavoro controproducente. Non sorrido perché coatto e romanesco vuol dire un'altra cosa. Sono romana e so bene cosa vuol dire, abbia fede. Mi permettevo però io la battuta. In questo caso, no, ma io aggiungo, era come perché sinonimo di coercitivo. Quello che volevo dire io, onorevole Di Salvo, che la parità, sì, che è sacrosanta e per la quale dobbiamo fare ancora passi da gigante, la parità di genere, si ottiene attraverso le mille battaglie che lei stessa porta avanti, che secondo me non è questa la battaglia. Ma lei dice sarà anche questa. Sì. Io rispetto il vostro punto di vista, contemporaneamente rispetto e condivido l'opinione di molti e molte altre che da anni si battono per battaglie, per unire alle battaglie sul rapporto di lavoro, sulle discriminazioni in tanti settori, sul fatto che la maternità non sia un ostacolo, eccetera, eccetera, uniscono anche questa, che intanto è bene ricordare, non è un dettaglio, non è l'unico impegno su quel fronte, ma è uno degli impegni su quel fronte. Perché una proposta di legge? Perché il Parlamento, quindi ovvio, siamo a fine legislatura, quindi certo. Ma insomma, il Parlamento è il soggetto che deve assumersi la responsabilità, decidere se, per esempio, è bene inserire nel codice penale il reato di femminicidio o no. Ma è vero, per esempio, che è vero che però, no, certo, è vero che con questa proposta di legge si cambierebbe, per dire, anche la legge uguale per tutti, no, la scritta anche nei tribunali, la legge uguale per tutti e per tutte. No, questo voglio sperare di no. No, invece questo è uno tutti, degli aspetti. No, per tutti gli esseri umani, vuol dire, non è che ma, per tutti no, gli uomini. No, ecco, questo aspetto, infatti io questo volevo integrare. La radice però spesso nasce da essere umano, umanità, essere umano, quindi il fatto che si decida di modificare queste parole, secondo me non tiene neanche conto di quella che è la matrice semantica della parola, perché leggevo che una delle regole è vietato usare il genere maschile se parliamo per tutta l'umanità. Sì, l'uomo, diciamo che l'uomo umanità. È sempre compiuto. L'uomo in questo senso è inteso come essere umano. Diciamo che in questo, su questo, esattamente su questo, l'Accademia della Crusca ha un'opinione totalmente opposta a quella che voi state dicendo. Per esempio, no? Adesso non parlo di dobbiamo sono subito chiamare il presidente e ridarguirlo. Lei sa che noi siamo grandi subito amici del presidente, era qui anche ieri. Dobbiamo ridarguirlo subito. Interpellato, sì, immediatamente. Per dire che, diciamo, io sono molto convinta che qualunque estremizzazione, qualunque caricatura non faccia mai un buon servizio alla battaglia che si dà. No, quindi il punto non è questo, il punto è proporre, e una proposta di legge, come vede, la proposta, ce ne fa parlare. Mm-hmm. Chiaro. No, questo argomento, cioè è cambiato il mondo, le donne sono protagoniste di questo mondo, anzi se ce ne fossero di più nei posti in cui si prendono le decisioni questo mondo sarebbe migliore. La Banca d'Italia dice che il PIL aumenterebbe del 7%, per dire, sì, ci fossero più donne che lavorano. Ecco, questo è parte di quella battaglia. Il linguaggio non è una cosa separata dalla realtà. No, no, è chiaro, lei dice non è la battaglia numero uno, ma è una battaglia che vale portare avanti. Il linguaggio deve registrare l'ostacolo. Ci sono di fronte a questi argomenti delle reazioni molto forti, ce lo siamo detti prima. No, no, ma è chiaro. Ecco, onorevole, l'unica cosa che io le dico da donna è cerchiamo di fare attenzione a non farla finire in burletta, perché poi con battaglie come questa si rischia che l'effetto che si ottiene nell'opinione pubblica sia controproducente. Però su questo, la prima cosa che ho detto io. Su questo, infatti, spezzo una lancia, cioè viene messa in burletta un po' anche dall'informazione, dal modo di trattarlo. Non è certo l'intento dell'onorevole Titti di Salvo, anche da me, lo so. Comunque la ringraziamo molto. No, ma noi in realtà poi nel darne anche spazio in maniera anche ironica è un modo in realtà per parlarne, e questo vuol dire che è un tema che ci interessa, altrimenti non l'avremmo affrontato. La ringraziamo, venti in bocca al lupo in questa battaglia, se ci crede, a livello parlamentare, onorevole Titti di Salvo del Partito Democratico. Ci sono tante telefonate. Rossana ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno e buon lavoro a voi. Grazie. Dunque, senta, io sono una persona abbastanza ignorante, però avendo 75 anni ho studiato in una certa maniera. Allora vorrei sapere dagli esperti, ma noi abbiamo in italiano l'articolo determinativo, giusto? Sì. Sì. Oh, che determina genere, numero e caso. Infatti la risposta è alla mia ironia, perché non si dice giornalista, è perché nelle parole che finiscono in ista è l'articolo che determina, quindi il giornalista, certo, o la giornalista. Però se cambiamo leggermente le regole senza stravolgere tutta questa cosa, sì, femminismo eccetera eccetera, non potremmo dire la sindaco? Ma infatti guardi che c'è stato sì, un grande dibattito, certo. Io ricordo quando c'era ministro Livia Turco, ci fu un dibattito per giorni, si dice la ministro oppure la ministra oppure il ministro, perché quelli proprio ortodossi dicevano così. È un dibattito, Rossana, se si parla di questa cosa, che c'è stato per giorni sui giornali. No, la ministro. Questa infatti è una delle soluzioni che si possono... opinare, guarda come gli piace. Mi ricordo benissimo, ci fu con Livia Turco, le chiesero la ministro o la ministra, e credo che lei scelse la ministro, cioè nel senso che le andava questo bene. Questo può anche avere un senso, perché declinare la stessa parola e decidere che si mette l'articolo. Un articolo differente può essere una modifica che secondo me poi secolarmente, qualora dovesse accadere, accadrà al di là dell'imposizione, a meno che non vogliamo multare tutti coloro che utilizzano che la ministra. Poi si arriva alle multe, lo Stato che punisce. Due secondi in più, le casse comunque hanno sempre bisogno di essere riempite, chiaro, quindi invece di trovare il vigile appostato dietro al cassonetto, a questo punto appena tu utilizzi ad alta voce la strada, ministro, dici, multato. Guardi, è una sanzione di 54 euro, ma come? Più IVA. Michele da Bergamo, sì, Michele, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per l'ospitalità e complimenti per la trasmissione. Sì. Sarò velocissimo per dare spazio anche agli altri. Volevo dare il mio contributo per quanto riguarda il discorso dell'accattonaggio, nel senso che avendo un paio di attività in piccoli centri commerciali in città di Bergamo, ormai sono da anni che sono presenti queste persone extracomunitari che addirittura si fanno il cambio, hanno i loro turni per poter chiedere l'elemosina ai clienti del supermercato. Guarda, a Milano, se lei va, ma credo anche a Roma, l'ho detto varie volte, non esiste ormai bar o esercizio pubblico dove c'è un flusso e un deflusso di persone continuo, dove non ci sia fuori una persona che chiede. Io in genere li ho sempre trovati, come dire, totalmente educati, nel senso, ciao amico, mi dai, oppure sì, no, ma insomma, questa aggressività non l'ho mai vista, però certo, Michele, lei come voleva concludere? Diciamo che purtroppo anche la legislazione non aiuta le forze dell'ordine, perché ovviamente c'è anche dietro un racket, questo molte sì, volte. Questo da molte e quindi anche i carabinieri e la polizia quando intervengono e li portano via, purtroppo poi li devono rilasciare, e quindi un circolo che è vizioso, che purtroppo finché a livello di legislazione non si interverrà in modo deciso avremo sempre queste situazioni che portano degrado su degrado, a mio parere. Questo sì, no, questo è vero. Più che degrado portano persone sfruttate, cioè se c'è un racket vuol dire che quello lì che è lì non è che si prende neanche i soldi per tenersi, vuol dire che viene anche magari minacciato, ci si focalizza sull'ultimo anello della catena perché è il più fastidioso apparentemente, no, a livello di, ma che è vittima, di vita è vittima pratica, ma in realtà è vittima, invece dietro non si va mai a vedere quali sono, qual è la matrice, no, che muove tutto. Comunque andiamo a sentire le informazioni sulla borsa, poi entriamo. 800240024, anche oggi avremo un defurbizzato, che bello questi defurbizzati, dobbiamo scrivere un libro di defurbizzati praticamente. Sì, potremmo fare un album, un album, ma sì, la foto ce la mandano. Smettila, no, perché vogliono, questo manda già la sigla, ma che ti sei innamorato della sigla, oh, mamma mia ragazzi, la borsa, la borsa. Assenti, ma a loro modo presenti, impegnatissimi, ma che poi si impegnano ad esserci, attenti, ma tanto distratti, volenterosi, ma un po' impacciati, autorevoli, ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo, è padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri per perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia, la domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Beh, per fortuna che ci sono. I funamboli. Come Manera mi fermo a guardare i manichini, sarà che abbiamo praticamente la stessa età e arriviamo dal postal market degli anni 70, molto probabile. Ciao a tutti. A Milan, che te serve? Se vuoi ti do una casa con i giardinetti intonsi. Oh grullaia, stamattina avete fatto due oglioni con questo congiuntivo sexy. La crusca è un mangiare per gli animali qua, dalle mie parti. Se non c'è la materia prima, è inutile, diglielo a quel grullo. Ciao! Tu lo sai chi è Veronica? Certo che so lo chi sai. È certo. Anacleto che... Allora, Anacleto... Che melodia sentirlo. Aspetta però, Veronica, noi stiamo facendo un processo per educare lentamente Anacleto. Ci stiamo riuscendo... poco alla volta. Per esempio ha imparato a mandare gli audio su WhatsApp. Sai come fa? Ti giuro, no, è tutto vero. Dimmi vai. Lorenzo Nespoli in redazione gli ha dato il suo cellulare, il suo numero, e Anacleto prende il cellulare a suo figlio, quello che non si leva dai coglioni con un gatto attaccato. Prende il cellulare del figlio. Prende il cellulare del figlio e manda Lorenzo Nespoli su WhatsApp. Pensa che vita Lorenzo Nespoli. Alle due di notte riceve i messaggi di Anacleto e poi gli dice Anacleto un po' meno parolacce, rimandalo per favore. Un po' più tipo non devi dire topa non si dice. Praticamente è iniziata una relazione tra Nespoli e Anacleto, però Anacleto ti stiamo educando, ma allora oggi ti diamo un altro compito. Non puoi dire nei messaggi è tutta la mattina che parlate, perché ieri ne abbiamo parlato, noi lo mandiamo in onda il giorno dopo e poi dopo fai una sfasatura temporale, non puoi costringerlo a bleffare. Lui purtroppo ti dice che ha ancora una differita di 24 ore. Li devi mandare atemporali, capisci questa parola? Alfa privativo, atemporali. Siccome gli hanno detto che c'ho l'elopio forbito, adesso deve mettere la privativo. Cioè, non so, sento che parlate, non stamattina, che poi l'abbiamo mandato il giorno dopo e non è più stamattina, capisci? Vabbè, Anacleto, ce la farai anche a capire questo concetto complicato, ma è semplice. È un discorso progressivo, è come la lingua italiana che inserisce il femminile. Guarda che secondo me a 80 anni lo portiamo a candidarsi a premier, eh? con questo, secondo me, con questo percorso. Anche secondo me, altro che defurbizzazione. Con Anacleto stiamo facendo un restyling totale. No, Anacleto, non ti invitiamo mai a dire quando hai fatto il furbo quella volta in cui, perché veramente ti arrestano in flagranza di reato. Troppo non si può fare, anche perché poi il nostro bando per ripescare chi far arrestare è già vinto da Anacleto, capito? Sì. Comunque è il momento, appunto, alle 10:39 minuti dei furboni. Defurbizziamoci. Oh, ecco. Finalmente. Abbiamo con noi Silvio. Silvio da Taranto ci ha scritto. No. Buongiorno. Silvio. Buongiorno. Ecco. No, io chiamo da Firenze. Da Firenze. Perché? L'importante è sapere, avere le idee chiare. No, le idee chiare ce l'ho. Sono no, Tarantino. No, noi dicevo. Ah, io sono Tarantino delle Cozze, quindi vabbè, allora. Provengo dall'Italsider. E allora, c'è un goccio di verità in quello. Vabbè, comunque Silvio, che è successo? Che è successo? È che qua negli anni 70 c'era, cioè, la prerogativa era quella del posto fisso, quindi si è lasciata la pesca, si è lasciato il turismo, quindi tutti quanti a lavorare all'Italsider. Quindi anch'io fra i tanti sono andato a finire all'Italsider. E l'estate, quando si lavorava sugli altiforni quando si passava dal carbon fossile al carbon coke, bisognava aprire dei coperchi a 1300 gradi. Quindi vi lascio immaginare che cosa succedeva. Al che la furbata dove stava? Che per evitare di andare a lavorare mi avevano indicato un albero di ricino. E i frutti dell'albero di ricino, se si passano sulle palpebre, si arrossano gli occhi. Quindi io andavo dal dottore e il dottore mi dava i famosi sei giorni per la guarigione. Ma è fantastico, quindi... ma anch'io in prima elementare però banalmente mettevo il termometro sul termosifone. Ma non fa male il ricino negli occhi? No, però sulle palpebre. No. Non il ricino, cioè si passava questo frutto sulle palpebre e si arrossava. Quindi siccome il ricino contiene un bel po' di roba... E il medico che cos'era? Congiuntivite? Che gli congiuntivite, dice? Bravo. Una congiuntivite è importante, perché immagino che avrà avuto gli occhi come due palle da baseball. Esatto. Vabbè, però, si prendeva, però lei Silvio, si procurava danno da solo. Esatto, non è che faceva una furbata, cioè si procurava del dolore fisico magari. La furbata anche. Era quella di non andare a lavorare per 6 giorni. Questo l'abbiamo capito, ma qui bisogna dibattere prima se si tratti di una furbata o meno. Allora, scusi, se si rompeva un braccio apposta prendeva 40 giorni, però capisce Silvio che insomma, scusa, spaccami un braccio che no, certo. attenzione, c'è stato qualcuno che si è dato una martellata sul dito. Deduco che il livello di esaurimento a cui era molto tragica, perché non ci sono le tecnologie di ora, quindi allora bisognava andare sugli altiforni, insomma. Noi sorridiamo, ma ci sta raccontando lo spaccato di una vita che fortunatamente non c'è più, anche se è dura. No, ma se voi seguite ora su Taranto, insomma, il rione Tamburi, è come se si fosse nell'Italsider, né più né meno. E qui nascono i bambini già col tumore addosso. Chiaro, no, questo è un tema, molto seguito. Molto scottante. Quindi. Però Silvio, lei ha fatto questa furbata, ma quante volte l'ha fatta questa furbata del ricino? Più di una volta. E sto medico diceva, che cacchio sta congiuntivite, ma debelliamola. Mi avrà detto, guardi che lei ha gli occhi fragili, guardi, li tenga sotto controllo. Vabbè, Silvio, noi la ringraziamo, le diamo la patente di... defurbizzato. In sto caso non entra, stia tranquillo, nel sorteggione finale per mandarle tra in carcere. Comunque siete dei ragazzacci e mi sta bene, va buono. Soprattutto quella ragazzaccia di Veronica Gentile. L'importante è che stia bene, ecco. E soprattutto un controllino dall'oculista, comunque io periodicamente lo farei. No, però è incredibile, da quando ha smesso di lavorare Silvio, gli occhi perfetti. Ma questa cosa, niente, mai più una congiuntivite. Quando uno dice il lavoro fa male agli occhi, mica soltanto quella storia, no? Diventi cieco, anche il lavoro. Quale storia? No, adesso ce la spieghi un attimo. C'è Michele da Roma, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, Michele. Senta, mi scusi, io volevo intervenire sulla questione della lingua, delle modifiche. Sì. La sindaca, la sindaco, la magistrata, eccetera. Vorrei dire che qui si sta tralasciando una questione fondamentale, cioè dire questa modifica la devono fare esclusivamente i linguisti. Qui si sta usurpando la funzione dei linguisti, erigendo i parlamentari a linguisti, il che mi sembra un assurdo. La deve fare ad esempio il professor Sabatini, che noi interessante, convochiamo. Interessante. Questo la deve fare. Cioè, interessante. Non voglio offendere i parlamentari. Ma no, ci mancherebbe. Però no, fa un'osservazione molto giusta, cioè dire non deve arrivare per legge, ma i linguisti fanno quel lavoro, i linguisti studiano la lingua, le evoluzioni, lo stabiliscano loro, ecco, per competenze. Ma quindi Michele, lei dice che il Parlamento dovrebbe convocare il presidente della Crusca o Sabatini e discuterne con loro, o che dovrebbe accadere a prescindere? La devono fare loro, quantomeno il substrato deve essere dettato da loro, perché certo. È un assurdo. No, ma è chiaro Michele, è tutto molto chiaro. Dobbiamo andare al traffico e poi rientriamo con Leonardo Manera. I funamboli. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita. Milan, un'idea. Perché adesso non fai una bella battaglia per essere chiamato giornalista e magari Peter Bescapè chiamato regista? Per assassinarci un po'. Sì, allora diciamo pure il tigro, la leona, ma fatemi il piacere, vai. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va sventolando il bandierone. Ed eccoci ancora qua il nostro Leonardo Manera che si ricimenta nelle inchiestone giornalistiche. Sì, avete notato cosa è successo questa settimana? Sì. Che è sparito un argomento di cui fino alla settimana scorsa si parlava in continuazione. Cioè? Si parlava solo di molestie sessuali. È vero. Sono finite, tutto risolto, tutto finito, non c'è più il problema. È stato un momento di così recessione, remissione del fenomeno. È colpa di voi giornalisti che attirate l'attenzione su determinate cose per un periodo, poi basta, chi se ne frega e non se ne parla più. Meno male che c'è l'inchiestista Leonardo Manera. L'argomento interessa la colpa è nostra. Sempre perché sei stato coinvolto al centro commerciale. No, perché è un argomento che insomma fa parte anche un po' del mio mondo, no? E quindi sono andato in città, in corso Buenos Aires, a chiedere cosa ne pensano le persone normali, quelle che si incontrano per strada, delle ipotetiche molestie sessuali. Quanto mi piacciono, Leo, i tuoi vox populi. Attenzione. A corso Buenos Aires, il popolo, cosa ne pensano delle molestie sessuali? Chiediti cosa ne pensi delle molestie sessuali di cui le donne si lamentano in questo periodo. Che dovrebbero, penso, ammazzarli di botte quelli che gli fanno molestie sessuali. Non mi interessa niente. Ma secondo te hanno ragione le donne a lamentarsi anche a distanza di anni oppure no? Fa tutto ridere questo. Perché? Uno, perché di sicuro non è vero, due, perché di sicuro andava bene, tre, perché di solito lo fanno per farsi belle, sembrare pie e per farsi pubblicità. Per noi poveri uomini, dove finisce l'avance, l'approccio e dove comincia la molestia? Quando inizia a rivolgermi la parola, magari, probabilmente. Perché secondo lei lo spettacolo è pieno di queste... No, perché probabilmente io in passato ho lavorato nel settore dello spettacolo e ho visto che è una prassi. Quindi se uno vede sul grande schermo un'attrice, vuol dire che questa attrice in qualche modo l'ha data? No, non è detto, dipende. Però c'è qualche possibilità? Se c'è qualche possibilità, penso che per andare avanti nel successo facciano anche questo. L'hai mai molestata lei? Assolutamente no. Tu cosa ne pensi? È vero o è una cosa che dice lui? No, è vero. Noi uomini siamo tutti delle bestie che molestiamo, ce ne sono anche un po' di normali? No, sono tante, però... Tanti di noi sono bestie. Esatto, è così. Però io... Dei cani proprio, la ricerca di sesso. Esatto. Siamo delle merde. Esatto. Io per fortuna ho una persona accanto. Hai trovato l'unico che non è una merda come persona. Esatto. La sposerei anche oggi. Ti ha fatto una proposta di matrimonio, ha detto che ti sposerebbe anche oggi. Tu accetti la proposta? Gliel'ho fatta già la proposta di matrimonio. Quindi... E allora hai accettato? Certo. Quando vi sposate? Fra 3 anni. Lo sai che dopo le cose andranno male a un certo periodo? Non ci credo, anzi io credo molto nell'amore, perciò va bene così. Anche tu credi nell'amore? Certo. Ecco, una coppia che andrà incontro a delle grosse delusioni. Grazie. insomma, che meraviglia, programmi a lungo termine. Sì, ci sposiamo tra tre anni. Tre anni è veramente tanto, non so come. Beh, tu le dai già per spacciate le coppie dopo tre anni, sì, altro che sposarsi fra tre anni. Non ci arrivano sicuramente a sposarsi. Perché vogliamo ricordare a tutti gli italiani che l'amore è destinato a finire sempre e comunque. Oh, questo è l'ottimismo di Leonardo Manera. Grazie. Con cui vogliamo lasciarvi per questo grazie weekend. Grazie Leo, per il weekend, esatto, con la voglia di cercare l'amore. Assolutamente, sì. Cerco di dare un segnale a tutti gli italiani. Perché un diamante è per sempre, ma l'amore no. Che bella massima, eh? Che bella massima. Che saggezza. Perché però, avvero, pensavi a vero che te serve, ma stai alzando un po' troppo le pretese. Dici un, che il diamante è un po' too much? Un diamantino, no? Un diamantino. Uno allora, degli ascoltatori che mi lanciava 3-4 improperi perché sono buonista, mi vuole mandare un diamantino, ah, no? Ah, ma non devi arrabbiarti per gli ascoltatori. No, ma non mi arrabbio. Detto, io, non sono, io non sono per niente permalosa. Dillo, raccontalo tu che mi conosci bene, che buon carattere ho. No, è stupendo. C'è un ascoltatore da Udine che fa una domanda basilare, sostanziale. Dice, non vorrei farmi i fatti vostri, ma esattamente il weekend come funziona? Tu, Alessandro, vai a Roma o Veronica viene a Milano? No, veramente Veronica, no, sta a no. Roma. Viene Alessandro, a Roma tutti i weekend. Sì. Ci incontriamo a Firenze. Andiamo anche con Michele da Firenze. No, anche la verità Leonardo. Adesso possiamo dirla. Michele ci ospita, quindi viene anche Leonardo e stiamo lì tutti quanti insieme. C'è un quartetto, capito? Va bene, però signori. C'è un messaggio fondamentale che dice, che voleva chiedere alla Di Salve e alla Boldrini. Io che facendo la spesa, lavando, cucinando, stirando, pulendo ogni giorno, mi definisco ironicamente casalinga disperata. Sarò mica obbligato per legge a farmi chiamare casalingo? Quindi questa è una bella domanda da porsi. È una domanda pregnante. Che stai facendo? Ti sei distratto? Lo no, so, ti, non mi sono ti distratto. Vedo che ti agiti. Ma no, non mi sono Nespoli, distratto. Fusconi, c'è Pancaldi, Lorenzo Nespoli, state, cos'è? C'è, state buoni. C'è Anacleto che ha mandato un ultimo massaggio. No, massaggio, un ultimo messaggio. No, niente. Il massaggetto da Anacleto ti ma sei ti fatto sta, fare? Ti sta stalkerizzando Anacleto con i messaggi dal cellulare del figlio, no? Perché sennò Anacleto, diciamo quindi, anche stare tirando le somme è Michele Leonardo Anacleto Lorenzo è diventato. No, giustamente dice li manda nel pomeriggio perché utilizzando il cellulare del figlio, il figlio è a scuola durante quindi il giorno. Quindi si è seccato che tu gli abbia fatto notare che è indifferita. Giustamente quando, ha detto agrullaia! Quando Anacleto si impossessa del cellulare del figlio che sarà felicissimo. Pensa alla scena a casa. Piccolo grullo, passami un attimo il cellulare che devo mandare un messaggio alla grullaia, al grullaio lì a Radio 20. Ma quanti anni ha questo figlio di Anacleto? Non lo so, vorrei sapere tutto del figlio di Anacleto. Va salvato, poverino. Va salvato. Signori, è venerdì, allora è il momento di darvi le coordinate. Potete scriverci a funamboli@radio24.it, questa è la mail. Poi ci seguite su Facebook, no? Ci seguite su Facebook, anche in video. Ci seguite su Twitter, abbiamo funamboli24, il nostro account. Tutto abbiamo. Vogliamo dare qualche altro numero così random? So, ridò allora, se vuoi il nostro numero, non so bene che lo numero, do fare. Dai il numero però di telefono, così se intervengono a due di denari e Io ve lo ridò, così chiamate adesso Meazza Rosciani, la coppia successiva. 349-238-6666. Questo è per i messaggi. Ah, davvero? Poi dopo c'è il numero verde 800-240024. Questo potete farlo anche se vi sentite soli o avete bisogno così. Se proprio voi vi sentite solissimi, amica. Il cellulare di Veronica Gentili è 338. Aspetta, che ora 5... il tuo. Guarda, lunedì, lo stai lunedì, imparando a memoria. Qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori.